Bienvenido, amigo Caro. Gracias de ser arrivado. Esta sera contaremos de una donna muy especial, muy bonita, molto rara, qualche volta un poco loca y por cierto sfortunata. Tuttavia una pintora de bravura comprobada. Levatevi i capotti, spegnete i cellulares, mettanse comodo sul soffice poltrone, aprite occhi, orecas, alma e cuore. Lasciate ogni tristezza, dejela fuera, appesa al palo, y accogliete con amor sua maestà, Miss Frida Kahlo. Nella mia immaginazione, con grande gioia e in fretta, fino a raggiungere una fattoria chiamata Pinzon. Attraverso la O di Pinzon, entravo e scendevo giù nelle viscere della terra, fuori dallo spazio, fuori dal tempo, dove la mia amica immaginaria mi aspettava sempre. Frida, pata de palo. Lei capiva tutto dalla mia voce. Quanto tempo? Forse un secondo, forse migliaia d'anni, chissà. Quando tornavo alla finestra, rientravo dalla stessa porta, cancellavo in fretta con la mano e... Thank you. andare insieme a te. Pulirei i pavimenti delle stazioni, laverei i vestiti agli sconosciuti, potrei stare insieme a te. Perché io senza te e tu senza me, siamo come una maniglia senza porta, mia piccola Flora. Thank you. il gran pittore di murales. Lui e i suoi murales eterni. Lui e la sua geometria prevedibile. Quando guardava un campo, Diego vedeva steli di grano, vedeva donne che abbracciano girasoli. Lui non ha mai visto scheletri ambulanti o foreste dove cervi dal volto di donna correvano trafitti dalle frecce. Frida! Essere la moglie di Diego è la cosa più meravigliosa che ci sia al mondo. Diego è un immenso bambino dalla faccia amabile e lo sguardo leggermente triste. A vederlo nudo viene subito da pensare a un ranocchio dritto sulle gambe posteriori. La sua pelle è bianco-verdastra come quella di un animale acquatico. Le sue spalle infantili, strette e arrotondate, confluiscono senza angolosità in braccia femmine che terminano in mani meravigliose che abbracciano l'intero universo. I suoi grandi occhi sporgenti gli escono quasi dalle orbite e sono tenuti al loro posto dalle palpebre gonfie e protuberanti, come quelle di una rana. Diego Dieghito è un mostro adorabile che la progenitrice, l'antica occultadora, la madre di tutti gli uomini e di tutti gli dei inventati nello stesso delirio, la donna, e fra tutte io, vorrebbe sempre tenere tra le braccia come il proprio bambino appena nato. Io so già tutto, senza leggere né scrivere. Fino a ieri ero una ragazza che camminava in un mondo di colori e forme chiare, tangibili. Oggi vivo in un pianeta di dolore, trasparente, come il ghiaccio. È come se avessi imparato tutto in una volta. Le mie amiche si sono fatte donne lentamente. Io invece sono diventata vecchia in pochi istanti ed ora è tutto insipido e piatto. So che dietro non c'è niente. Se ci fosse qualcosa, lo vedrei. Volta che l'ho visto da quando avevo 15 anni che lo dico. Avrò una bambina bellissima e la chiamerò Flora Violetta. Odore di flanella, aria di mare, una spezia pungente, forse noce moscata. Ci sarà un cortile con un cancello, un ferro battuto in fondo al viale, una fontana piena zeppa di foglie, pappagalli sulle palme, non una nuvola. Io la terrò per mano, Flora Violetta, memorizzando la struttura ossea delle sue dita. Le leggerò la mano per dirle esattamente dove sarà in tutti i suoi compleanni. Pechino, Lisbona, Praga. Un giorno fumeremo insieme l'oppio nei giardini di Casa Azzurra. Le canterò Ninna Nanna e inni rivoluzionari. Le leggerò i romanzi russi in francese. Rimbaud. Le insegnerò a riconoscere le erbe, i fiori, i colori. malattia, paura. Parte del sole dell'allegria. Blu cobalto. Amor. Nero. Non esiste nulla di nero. Veramente nulla. Verde scuro. Brutte notizie. Buoni affari. Blu marino. Distanza. Tenerezza. Magenta. Sangue. Chissà. Chissà. Di una certa lettera. Vista per caso. In una certa giacca di un certo signore. È scritta da una certa signorita che viene dalla lontana Germania. Mi ha causato, a dir la verità, molta rabbia e anche un po' di gelosia. Malgrado tutto, io e te ci amiamo sempre e continueremo sempre ad amarci. Vero, Panzon? Amami un pochino, Dieghito. Io ti adoro. Cara Isabella, San Francisco è bellissima, ma mi manca molto il Messico. La città, la Bahia, sono grandiose, ma non mi piacciono affatto i gringos. È tutta gente molto noiosa, hanno tutti facce che somigliano a tonde cotte mare, soprattutto le vecchie. Anche il loro stile di vita mi sembra del più ripugnante, quei dannati parties in cui tutto si risolve sorseggiando tanti piccoli cocktails. Sanno nemmeno ubriacarsi in modo piccante. Solo chi vende quadri è considerato una persona importante, altrimenti non gli danno un centesimo d'attenzione. Important people! Io stesso madre, devo tutti farcela diventare qualcuno. Io francamente non ho la benché minima ambizione di essere la gran caca, non mi interessa proprio. Non ti dico che inglese mastico l'essenziale, sembro una ritardata. Non ho amiche, conosco un paio di persone che però non posso chiamare amiche, quindi passo il tempo a dipingere, anche se finora ho venduto gran pochi quadri. Salute? Abbastanza bene, a parte il mio solito piede, dopo il tappo di cui si voglia. L'ultima operazione è stata l'ennesima macellazione, ma le direi tutti i dottori loro antenati, cominciando da Adam e Eva. Mi comporto abbastanza bene, nel senso che bevo poca tequila, vodka, alcol, eccetera. Lo considero un ulteriore passo verso la liberazione delle classi oppresse. Prima vedevo per annegare i dispiaceri, poi quegli stronzi hanno imparato a nuotare. E infine Diego, a parte il suo solito debole, per le signore giovani, bionde, americane, a cui mostra sempre molto volentieri i suoi murales, è il solito caro ragazzo, io lo amo sempre moltissimo. Salutami tutti! Mancate davvero tanto. Dammi notizie del dottore, dottor Contorsito. E tu, mia giovane amica, ricevi il consueto affetto da colei che ti vuole sempre molto molto bene, Frida. Friduccia, Friducita. Biondo rosa, biondo arancio, biondo bianco, l'inverno. i capelli indietro da uomo. Dicevo loro che il mio nome era Bruno e che dovevano chiamarmi così. Le schiaffeggiavo, le insultavo, sputavo tequila sui loro ventri. Frida, che ragazzaccio, col panama e gli stivali, la riconoscevi sempre alla fiesta, con la gola arrucchita dall'alcol e dalla marijuana. Diego Rivero, ho avuto un aborto spontaneo. tutte menzogne. La morte di mia madre, uccello incatramato, oleoso, Detroit sporca come i segreti di una bambina, gallerie, musei, scuole d'arte, università, ville, attici, parate, bande che suonavano inni rivoluzionari e vaffanculo! Voglio altra tequila, sonniferi, hashish, non si può comprare dell'oppio a Detroit, non c'è qualcosa di più veloce, di più potente! Non c'è. Non c'è. E allora... aspettare e dipingere e lottare e ancora dipingere. L'angoscia, il dolore, il piacere e la morte non sono nient'altro che un processo per esistere. Buonanotte, sole, luna, Diego, amor. Buenas noches, Frida. Spero che l'uscita sia felice e spero di non tornare mai più. Ah, vai da, vai da! Hay momentos en que quisiera ancora a fare.